So, parla Christian, gli diamo uno spazio, non so, un pezzetto di tavolo. Se no. Vieni qua, dai il microfono. Fatto così. Io penso che quando si analizzano fenomeni come quelli elencati all'inizio da Aldo, sia forte la tentazione di passare da un tema all'altro, da un polo, dalla contraddizione all'altro, per esempio fissando come delle separazioni fra sociale, politico, lavoro dipendente, lavoro indipendente, terzo settore, settore mercantile, Stato, mercato. Ecco, io penso che se c'è qualcosa che va evitato è precisamente questo saltare da destra e sinistra a destra, perché se c'è una contraddizione, un aspetto che è fondamentale della transizione post-fordista è che essa procede per accumulo di contraddizioni. Ora, è su questo crinale di fatto di contraddizioni che si può definire un agire politico, quello che io definirei un agire costituente. Prendiamo l'esempio della ristrutturazione post-fordista, nel senso del toyotismo, nel senso americano del downsizing, del reengineering. Ebbene, di questi ultimi mesi una critica, o meglio un'autocritica che appare mese dopo mese appunto sull'Economist e su altri settimanali importanti, un'autocritica da parte di coloro che l'hanno teorizzato e l'hanno, come dire, promosso negli Stati Uniti, ma non solo. Autocritica di un modello che è appunto quello basato sulla flessibilizzazione, ma soprattutto su quello sulla esternalizzazione, sul subappalto, di cui si è parlato molto in Italia a proposito del lavoro autonomo, del lavoro indipendente. E qual è l'autocritica? Perché c'è questa autocritica? Perché ci si rende conto che con questa ristrutturazione in chiave appunto diciamo così post-fordista, le imprese perdono il controllo sui flussi di sapere, ossia che in un momento in cui si esternalizza e ci si affida al subappalto, ma viene a mancare quella che nella teoria dell'azienda si chiama la terza fase, lo strategic linking, cioè il controllo sui flussi informali di sapere. Come dire che la fabbrica madre, la casa madre si instupidisce da una parte e il sapere che è fondamentale proprio nel suo circolare in modo informale, è fondamentale per alimentare continuamente l'innovazione dei prodotti. Questo controllo, il controllo su questo sapere, su questo strategic linking viene meno. Tant'è vero che addirittura si parla di interiorizzazione sotto forma di piccole e medie imprese che prenderebbero il posto dei reparti di quello che invece negli ultimi anni si è esternalizzato. Questa è una prima contraddizione, nel senso che proprio quella risorsa fondamentale, risorsa capitale umano attorno alla quale ruota tutto il postfordismo, che è il sapere, la conoscenza, la creatività, eccetera, proprio quella sfugge a causa del tipo di organizzazione, di deterritorializzazione, di scomposizione di quello che una volta era la fabbrica fordista. Un'altra contraddizione che vorrei richiamare e che mi permette di ritornare sulla questione appunto sul terzo settore è del 89, un articolo sull'Harvard Business Review di Peter Drucker. Peter Drucker è uno dei padri della teoria dell'impresa e della teoria del management americano, riconosciuto mondialmente ha più di 80 anni e nell'89 è uscito con un articolo dove suggeriva caldamente agli imprenditori, quindi al settore privato, di andare ad imparare come si fa a gestire un'impresa presso le associazioni non profit. Perché lui vedeva nella organizzazione di queste associazioni non profit, che vanno dalla Salvation Army ai Boy Scout, a Caritas e via dicendo, vedeva in questa gestione e organizzazione delle non profit una grossa innovazione di cui il settore privato e il settore dell'economia privata farebbe meglio ad appropriarsi per migliorare la gestione e per aumentare l'efficienza dell'azienda e dell'impresa. Cosa vuol dire? Vuol dire che proprio il fondatore di questa scuola del management americano si era accorto alla fine degli anni 80 che le associazioni non profit erano riuscite meglio proprio nella loro storia, per il fatto che non hanno mai soldi, quindi devono ingegnarsi a trovarli, per il fatto che hanno una missione e possono misurare la loro efficacia partendo dagli effetti esterni all'azienda, non a quelli interni sotto forma di crescita dei profitti monetari, come invece nel settore dell'economia privata. E quindi la misura della produttività è data dal quantum di successo, di soddisfacimento dei bisogni per i quali queste associazioni nascono, per difendere i quali queste associazioni nascono. Quindi il fatto che il personale, sia esso professionale o volontario, che lavora in queste associazioni, si muove sulla base di una missione ed è organizzato in termini così di forte comunicazione interna. Ecco, va bene, tutti questi aspetti sembravano decisivi a Peter Drucker per suggerire appunto alle imprese profit ad andare a imparare dalle non profit. Un altro problema che mi sembra fondamentale, e quindi ovviamente è molto difficile distinguere fra agire profit e agire non profit, nel senso che io ci andrei piano a contrapporre un modello all'altro, non fosse altro che per questo semplice riferimento a a una crisi di coscienza di uno dei massimi teorici della gestione aziendale profit. Un altro problema che mi sembra importante evocare per quanto riguarda questa transizione post-fordista è questo rapporto fra lavoro dipendente e lavoro indipendente. È vero che dalla fine degli anni Ottanta in tutti i paesi europei c'è stato un cambiamento della curva del lavoro dipendente in rapporto alla popolazione attiva in tutti i paesi europei. Dopo 100 anni di calo graduale fino al 7-8%, il lavoro indipendente ora raggiunge mediamente il 18-19% della popolazione attiva a livello dei vari paesi europei e anche di più negli Stati Uniti. Però e questo è un segno importante, perché appunto è quel famoso lavoro indipendente eterodiretto, di seconda generazione, di cui Bologna parla da diverso tempo. Però il vero problema oggi sta nel fatto che il lavoro dipendente si ispira al lavoro indipendente. C'è come una interiorizzazione dei moduli di lavorare del lavoratore autonomo all'interno dell'impresa. Quindi il problema non è neanche più quello di contrapporre il lavoro dipendente o indipendente, semmai di capire che la fine del lavoro salariato comporta l'inizio di una lunga fase nella quale centrale sarà il lavoro indipendente nella sua essenza. La centralità del lavoro indipendente è pari alla centralità del lavoro salariato iniziata con l'industrializzazione del secolo scorso. Ecco, di nuovo, su questi passaggi dall'uno all'altro campo non c'è soluzione continuità, non si passa drasticamente come dire, proprio perché la caratteristica, ripeto, della transizione postfordista è questa, compenetrazione contraddittoria di aspetti che noi, e qui è l'errore nostro, noi tendiamo per così semplicità, perché vogliamo correre svelto e ci sfugge proprio nella fregola di marcare le nostre identità politiche, di differenziarci, eccetera, ci sfugge poi l'essenziale, perché l'essenziale è precisamente questo processo accumulativo di contraddizioni. Prendiamo un altro caso, questo lavorare comunicando, di cui si è parlato, insomma. Anche qui è vero che rispetto alle teorie di Habermas, eccetera, che proprio escludono quasi a priori, quasi come scelta, quasi come disprezzo verso la fabbrica, escludono la possibilità stessa di un agire comunicativo all'interno della fabbrica. A parte questa impostazione, che ovviamente è del tutto sorpassata, il problema è che è vero che nel momento in cui l'agire comunicativo entra in fabbrica o nell'ufficio si scontra con l'agire strumentale, perché un conto è creare l'ambiente nel quale appunto si cerca un consenso a mezzo di linguaggio, di comunicazione, eccetera, e un altro però è riorientare l'azione verso il successo, verso il profitto, e quindi c'è anche lì una contraddizione fra un agire, come dire, invocato, quella nuova materia prima che è il linguaggio all'interno delle aziende, e il fatto che comunque non appena questo modo di produrre deve fare i conti con l'economico, no, con la competitività, eccetera, eccetera, questo momento comunitario diventa un momento di produzione, di esclusione, di licenziamenti, di tagli di salari, eccetera. Quindi è nello scontro fra l'economico e questo momento di comunità che l'agire comunicativo viene, ritrasformato in agire strumentale, con gli effetti che ben sappiamo. Ora, se dico questo è perché io penso che sia difficile oggi, dentro questo accumularsi continuo di tensioni, sia per esempio difficile pensare a una seconda repubblica per quanto riguarda il vostro paese, con una carta costituzionale, con delle meta regole simili, ma diverse, ma voglio dire simili come impianto giuridico, con un insieme di metaregole simile appunto a quelli della Prima Repubblica. Credo che una delle caratteristiche appunto che conseguono a quelle che dicevo prima in questa transizione postfordista è l'incostituzionalità di ogni forma di governo che pretenda di definire delle metaregole, delle regole che dall'alto appunto ricostituendo l'autonomia del politico strutturino in modo verticale a cascata la società. Questo si potrebbe aprire un lungo capitolo su questa impossibilità, quasi ormai strutturale di sollevarsi dal questo piano orizzontale estremamente pervasivo, fatto di comunicazione appunto orizzontale, eccetera. Però a me interessa dire che il problema non è quello di elaborare delle regole dentro questa logica, dentro questa meccanica giuridico-costituzionalista. Il problema è quello di vedere come noi possiamo, dentro questo processo, agire in un modo costituente. Questo è il punto che mi interessa. Costituente e in che senso? Nel senso che credo che valga la pena di pensare ad un agire che assuma, che faccia proprio il famoso weberiano come se. Come se questo modello di società postfordista, fatta di comunicazione, fatta di produzione continua di momenti di comunità, perché questo è l'agire comunicativo piegato sulla logica strumentale, è come se questa comunità venire, in questo condivido l'esercizio, come dire, teorico di Bonomi nel suo ultimo libro, provare a ragionare, ma non solo a ragionare, ad agire già pensando a questa società e agendo quindi in modo costituente, come se questa società funzionasse, come se questo paradigma che noi abbiamo visto, abbiamo individuato leggendo queste, analizzando queste trasformazioni post-fordiste, ma che però non si compie. È un processo infinito questo del post-fordismo, è una transizione che è carica di contraddizioni talmente esplosive. Quando si dice agire comunicativo, attenti, perché questa al limite è anche un'autocritica, perché per esempio, pensiamo quando si riesce a instaurare un momento comunitario di comunicazione all'interno dell'azienda o dell'impresa. Io ho sempre presente l'esempio di una fabbrica di yogurt dove una volta verificata una perdita di latte lungo la catena del processo produttivo, si sono raggruppati gli operai e si sono costituiti proprio dei momenti, momenti assembleari per individuare dove era la perdita di latte, eccetera. Il consenso lì, quello habermasiano proprio, perché c'è stato? Perché è stato possibile innovare in questo senso in termini post-fordisti a partire da un dato così, di una perdita proprio fisica di una materia prima come il latte per la produzione di yogurt? Ma proprio perché il latte tocca il nostro corpo, dico non solo dalla nascita, ma voglio dire il nostro corpo che già pensa, che già non vuole buttare via materie prime come questa. Ed è un po' simile a quella perdita di sapere denunciata dagli imprenditori, dai teorici del downsizing, eccetera, che è poi il nostro sapere, voglio dire, è quel momento che ci fa sentire comunità, perché territorializzata o meno, ma comunità perché è una comunità che controlla il proprio sapere. Ora io credo che quel agire politico all'insegna del come se abbia nel nostro corpo, nella difesa della nostra salute, nella difesa del nostro ambiente, eccetera, il suo motore, la sua linfa, quello che ci fa fare politica appunto partendo da questo come se. È quello che ha portato probabilmente i funzionari dell'amministrazione francese a trovare un consenso di fronte a uno degli aspetti di questa transizione post-fordista, il fatto di imporre queste costrizioni budgetarie alla Francia, il fatto dunque di tagliare nel settore della spesa pubblica, nel settore dei grandi servizi di rete, eccetera, no? Penso che dietro questa grossa mobilitazione ci sia questo agire, questo lavorio, questo travaglio del come se, e credo che sia proprio partendo da una nostra difesa aggressiva di quello che noi concepiamo come nostro corpo, come corpo della nostra collettività, che si possa fare politica in questa transizione post-fordista.